Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che subito presenta il menù. Inizialmente completeremo l'intervista con Teresa Buongiorno, che assieme a Gianni Rodari ha costruito un'importante trasmissione per ragazzi della TV da Gioca Gioco. Autrice per ragazzi, storica, grande studiosa della letteratura per l'infanzia, che ha lavorato in televisione con Gianni Rodari. L'incontro con il modo di lavorare di Rodari a te personalmente cosa ha lasciato? Guarda, il modo di lavorare di Rodari io non pensavo che mi lasciasse tanto, perché come si dice, io ero un po' avvilita che dagli adulti mi avessero mandato ai bambini, perché dicevi, a quell'epoca i maestri, gli insegnanti erano qualcosa in meno dei giornalisti, dei professori universitari, del futuro, della scienza. E quindi gli ho detto, sai, sono un po' avvilita perché mi hanno retrocesso di nuovo a fare la maestra. Io avevo insegnato al liceo classico e già, come si dice, mi sembrava una cosa superata. E lui mi ha detto, guarda, io avevo molta fortuna in politica, ma siccome poi davo ombra a qualcuno, hanno detto, tu hai fatto il maestro prima di fare il giornalista e quindi vai a lavorare per i bambini. E io, perché allora Rodari aveva fondato per il Partito Comunista un'associazione che si chiamava I Pionieri, che adesso non credo che esista più, che era come gli scout per il mondo laico e anche per il mondo cattolico, e quindi volevano dare un'educazione di base che fosse aperta ai nuovi valori della rivoluzione russa. Poi, sai, è tutta la storia, è tutta collegata, adesso non si studia più la storia, ma bisognerebbe sapere che cosa ci abbiamo alle spalle. E quindi quel modo, dicevi, che ti ha convinto, allora, che in realtà i bambini non erano così inferiori. Rodari mi ha detto, guarda, loro non hanno capito niente, nell'infanzia c'è il futuro, e noi lavorando per i bambini abbiamo un piede, abbiamo la porta per il futuro, mentre loro sono già vecchi. Capito? Già vecchi di... Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim Jaree. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim Jaree. Good luck will rub off when I shake hands with you. I'll blow me a kiss and that's lucky to you. Jim, Jim, Jim, Jiminy. Now as the ladder of life has been strung, you may think a sweep on the bottom most rung, though I spend my time in the ashes and that. In this whole wide world there's no happier cat. Chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim, chim. I choose my Bristol with pride, yes I do. A broom for the chef and a brush for the flue. Though I cover the soot from my head to my toe, a sweep knows he's welcome wherever you go. Jim, Jiminy Jim, Jiminy Jim, Jim Jaree. And you with a sweep, you are in good company. Nowhere there more happier crew than them that sings Jim Cham Jim Jew. Jiminy Jimmy. Continuiamo a parlare di Gianni Rodari, ma da un punto di vista del Gianni Rodari in musica, perché le filastrocche di Rodari sono assolutamente portate ad essere in sé musicali, quindi sono state più volte tradotte da filastrocche in canzoni. Lo sa bene Mario Piatti, docente di pedagogia musicale nonché direttore della rivista online musicheria.net, che appunto ha lavorato moltissimo sullo spartito a partire appunto dagli scritti di Gianni Rodari. Lo abbiamo incontrato perché a fine d'anno a Orvieto, come di consueto, si celebra il Winter Jazz, e nella rassegna c'era anche uno spazio per bambini legato a C'era due volte Gianni Rodari, sei quadri per quartetto jazz e pubblico partecipante. Ci ha spiegato un po' di cosa si trattava, sentiamo le sue parole. C'era due volte Gianni Rodari, cioè sei quadri per quartetto jazz e pubblico partecipante. Parliamo con Piatti, che ricordiamo essere con Strobino direttore scenico e direzione, insomma, quindi sì, uomo che è ben informato dei fatti. È un'iniziativa che abbiamo organizzato insieme a Umbria Jazz for Kids, che è nell'ambito appunto del festival Umbria Jazz Winter lì a Orvieto. E siccome appunto Orvieto sede del Centro Studi Rodari, io che da anni mi occupo un po' anche del rapporto tra Rodari e la musica, da un anno circa è nata l'associazione Il Jazz va a scuola, quindi legato anche al Festival Jazz di Perugia, alla Umbria Jazz, e allora si è cercato di fare un binomio fantastico, come direbbe Rodari, cioè fare un abbinamento tra Rodari, la musica e il jazz. E allora con Enrico Strobino abbiamo pensato questa performance per un quartetto jazz e il pubblico partecipante coinvolto attraverso alcune tecniche di animazione nell'evento. Delle letture, delle presentazioni da parte di un lettore, un po' le sembianze di Rodari per, come dire, attivare un po' la fantasia dei partecipanti anche attraverso l'ascolto di alcuni brani. Un lettore che noi ben conosciamo perché è lo scrittore Massimo Vitali, che trasmette la nostra radio, quindi è di casa. È di casa, sì. Speriamo di riuscire comunque a a coinvolgere sia i bimbi che i genitori, che appunto organizzata lì Orvieto anche in collaborazione con la scuola di musica di Orvieto, quindi con una presenza sul territorio importante. Diretto dal maestro Gabriele Anselme tromba, Sonia Peano al violino e ospiti speciali, quindi sì, un nutrito cast in questo. Ma diciamo tu Rodari l'hai ben conosciuto? Penso che negli anni Ottanta mi ero divertito un po' a musicare le filastrocche in cielo e in terra, e quindi purtroppo quando avevamo deciso di portargli il disco, purtroppo lui è mancato. Ma le filastrocche di Rodari sono in sé un elemento musicale, hanno una ritmica, un andamento che è impossibile non vederla con l'orecchio anche musicale. Certo, le filastrocche di Rodari sono già a leggerle sono musicali di per sé. Ma Mario Piatti già l'avevamo incontrato questo dicembre e nel convegno è scoppiata una torta in cielo, la pace in filastrocca, organizzata dall'associazione Yucali, dove appunto ci ha parlato del Rodari non solo in jazz ma in altre forme musicali, a cominciare dal brano che sentiamo, che è una trasposizione della filastrocca nel gruppo I Mercanti Liquori, che noi ben conosciamo perché ha seguito Paolini in tante pièce teatrali. Ho visto una formica in un giorno freddo e triste donare alla cicala metà delle sue provviste. Tutto cambia, le nuvole, le favole, le persone. La formica si fa generosa, è una rivoluzione. Nelle filastrocche di Rodari c'è una musicalità grande. Non a caso, quasi tutte le filastrocche in cielo e terra, del libro delle filastrocche in cielo e terra, quasi tutte sono state musicate da decine e decine di musici. Ed è interessante questo aspetto, come per esempio uno stesso testo ha avuto interpretazioni le più diverse, appunto dai Mercanti di Liquori, per la musica roccheggiante, insomma, in qualche modo, fino ad alcuni autori che hanno fatto dei cori a più voci, dei cori polifonici sui testi di Rodari, cioè la filastrocca Speranza, se io avessi una volte buccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere, sai cosa, la Speranza, eccetera, eccetera, è stata musicata per un coro a quattro voci. Il quartetto Cetra, chiaramente Virgilio Savona, è stato uno dei musicisti che più di altri hanno musicato il primo disco, che era intitolato tra l'altro proprio Filastrocche in cielo e in terra, cantato da Lucia. Direi che siamo a un centinaio di musicisti che hanno musicato, e abbiamo quindi sostanzialmente nella ricerca che avevo fatto e che in qualche modo avevo documentato in quel libro Gianni Rodari e la musica, avevo individuato circa 400 canzoni sui testi di Rodari. E questo è abbastanza indicativo anche della musicalità dei testi. Poi, oltre diciamo, le canzoni, c'è anche tutto un lavoro che è stato fatto in ambito teatrale. Molti testi di Rodari sono inseriti

sempre innamorata del suo topo, giustamente contraccambiata, è da allora una delle coppie più affiatate ed inseparabili. Minnie vede la luce cinematografica nel 1928, quando appare per la prima volta, insieme a Topolino, nel cortometraggio L'aereo impazzito. È stata la prima signora della famiglia Disney, una star e un'icona della moda, fin dalla sua prima apparizione. Scolpita nella memoria collettiva di grandi e piccini, generazione dopo generazione. Femminile, rassicurante, sempre sorridente ma anche emancipata, soprattutto per l'epoca, non resta a casa ma spesso segue Topolino nelle sue avventure. Minnie, sempre disponibile, offre sostegno e amicizia a Clarabelle, accudisce le due vispe nipotine ed è un personaggio disneyano di primo piano. I suoi look sono entrati nell'immaginario pop, divenendo, negli anni, fonte di ispirazione per i numerosi stilisti che le hanno reso omaggio sulle passerelle internazionali. Settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?